Ad alta voce, Tommaso Ragno legge I 10 giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed, traduzione di Barbara Gambaccini. L'implacabile inverno russo era alle porte. Gli uomini d'affari ribadivano: la stagione fredda è da sempre la migliore amica della Russia, forse ci libererà anche dalla rivoluzione. Sul fronte, ormai ghiacciato, gli eserciti, perso l'iniziale entusiasmo, morivano di fame. I binari si guastavano, i viveri diminuivano, le fabbriche chiudevano. Il popolo, disperato, accusava la borghesia di sabotare il paese, determinandone la disfatta militare. Riga fu abbandonata non appena Kornilov ebbe pronunciato pubblicamente le seguenti parole: «Sarà dunque Riga il prezzo che dobbiamo pagare affinché i cittadini riacquistino il proprio senso del dovere?» Agli americani può risultare inammissibile che una guerra di classe giunga a tanto. Eppure, io stesso ho conosciuto ufficiali sul fronte settentrionale che avrebbero accettato la piena disfatta militare pur di non collaborare con i comitati dei soldati. Il segretario della sezione di Pietrogrado del partito cadetto mi confessò che la catastrofe economica era parte integrante della campagna atta a screditare la rivoluzione. Perfino un diplomatico alleato, cui ho garantito l'anonimato, mi confermò tali parole. Mi è altresì giunta voce di alcune miniere di carbone nei pressi di Charkiv, incendiate e allagate dai loro proprietari, di costosi macchinari in numerose aziende tessili di Mosca, distrutti dagli stessi ingegneri, che ne abbandonarono poi gli edifici, di un vero e proprio sabotaggio ai danni delle locomotive, di cui si resero fautori alcuni funzionari ferroviari colti sul fatto dai loro operai. Buona parte del ceto agiato e di coloro al governo stimava preferibile il dominio tedesco alle conseguenze di una rivoluzione ben riuscita e neppure si poneva il problema di tenere per sé tale considerazione. Nella famiglia russa, presso la quale ero alloggiato, la conversazione verteva a ogni pasto sull'imminente arrivo degli invasori e sulla legge e ordine che essi avrebbero ristabilito. Nel sorseggiare il tè, durante una serata che io trascorsi in casa di un mercante di Mosca, qualcuno domandò agli ospiti se preferissero Guglielmo o i bolscevichi. Delle 11 persone presenti, solo uno si pronunciò in favore di questi ultimi. Del caos generale profittavano gli speculatori, i quali, assicuratisi di grandi ricchezze, le utilizzavano per organizzare orge strepitose o per corrompere funzionari governativi. I viveri e il combustibile così accaparrati venivano poi tesaurizzati o esportati clandestinamente in Svezia. Durante i primi 4 mesi di rivoluzione, i depositi municipali di Pietrogrado furono letteralmente saccheggiati, al punto che la riserva biennale di grano scese al di sotto del fabbisogno mensile cittadino. Secondo il rapporto ufficiale dell'ultimo ministro agli approvvigionamenti del governo provvisorio, il caffè, acquistato all'ingrosso a 2 rubli alla libra a Vladivostok, era venduto al consumatore finale di Pietrogrado a 13 rubli. Tutti i magazzini delle grandi città traboccavano di viveri e vestiti che solo i più facoltosi potevano acquistare. In questa atmosfera di depravazione e di raccapriccianti mezze verità, il profondo appello bolscevico riecheggiava giorno dopo giorno come un'unica nota limpida. Tutto il potere ai soviet, tutto il potere ai diretti rappresentanti di milioni di operai, soldati e contadini, terra, pane. Poniamo fine a questa guerra insensata, alla diplomazia segreta, alle speculazioni, ai tradimenti. La rivoluzione è in pericolo e con essa è a rischio la causa stessa di tutti i popoli. I mesi di settembre e ottobre sono i peggiori dell'anno in Russia e soprattutto a Pietrogrado. Dal cielo grigio e opaco ogni giorno cade una fitta pioggia che impregna il terreno. Anche quell'anno ci si muoveva in un denso strato di fango, viscido, appiccicoso, solcato dalle impronte di pesanti scarponi. A peggiorare il tutto, la terribile inefficienza dei servizi municipali. Un vento umido e pungente, proveniente dal Golfo della Finlandia, imperversava senza tregua mentre una fitta coltre di gelida nebbia si spandeva lungo le strade. Nella notte, in parte per motivi di economia, in parte per timore dei dirigibili tedeschi Zeppelin, pochi erano i lampioni accesi e nelle case l'elettricità era consentita solo dalle 6 a mezzanotte. L'oscurità, essendo le candele costose, quasi mezzo dollaro l'una, e il petrolio scarso, perdurava dalle 3 del pomeriggio alle 10 del mattino. Come conseguenza, furti e violazioni di domicilio dilagavano sempre più, costringendo gli uomini armati di fucili a continui turni di guardia. Questa la situazione sotto il governo provvisorio. Nelle settimane successive il cibo divenne sempre più scarso. La razione giornaliera di pane scese gradualmente da una libra e mezzo a una, a tre quarti, a mezza, infine a un quarto. Accadde perfino che per un'intera settimana non vi fosse pane da distribuire. Benché la legge stabilisse il diritto a ricevere mensilmente 2 libbre di zucchero, era praticamente impossibile trovarne. Una barretta di cioccolata o una libra di insipidi dolciumi costavano ovunque dai 7 ai 10 rubli o in alcuni casi perfino un dollaro. Solo la metà dei bambini residenti in città riusciva a ricevere il latte. La maggior parte delle persone non poteva usufruirne per mesi. Perfino mele e pere, seppure di stagione, erano vendute a poco meno di un rublo l'una agli angoli delle strade. Ore e ore di coda, spesso sotto una pioggia sferzante, erano necessarie per ottenere latte, pane, zucchero, tabacco. Nel rientrare a casa da una riunione notturna, io stesso ho assistito al configurarsi, ancor prima dell'alba, di queste processioni, per lo più costituite da donne, molte delle quali recavano tra le braccia i propri pargoli. Carlyle, nella sua opera La rivoluzione francese, descrisse il popolo come incredibilmente portato a sopportare lunghe attese in coda. Tale attitudine in Russia, sviluppatasi al tempo di Nicola il Benedetto, a partire dal 1915, si era protratta in modo discontinuo fino all'estate del 1917. Fu a partire da quel momento che essa divenne una costante quotidiana nella vita delle persone. Basti pensare a tutti coloro che nei rigidi inverni sostavano giornate intere inadeguatamente abbigliati sui marciapiedi gelati di Pietrogrado. Io stesso ho avuto modo di ascoltare di tanto in tanto l'amaro biasimo del malcontento sfuggire all'innaturale pazienza del popolo russo. Paradossalmente i teatri erano aperti tutte le sere, comprese le domeniche. Karsavina danzava in un nuovo corpo di ballo al Teatro Mariinsky e l'intera Russia, da sempre appassionata di danza, accorreva per ammirarla. Shaliapin cantava. Al Teatro Aleksandrinsky si mise in scena la produzione di Meyerhold della morte di Ivan il Terribile di Tolstoj. Rammento di avere notato, in una di quelle rappresentazioni, un allievo in uniforme da parata della scuola dei paggi imperiali, il quale, al termine di ciascun atto, si poneva sull'attenti rivolgendosi al palco imperiale, ormai deserto e depauperato perfino delle aquile. Il teatro Krivoje Zerkalo mise in scena un sontuosissimo girotondo di Schnitzler. Per quanto la collezione dell'Ermitage e di altre gallerie d'arte fossero state trasferite a Mosca, ogni settimana si alternavano mostre di pittura. Conferenze su arte, letteratura e filosofia popolare attiravano centinaia di donne dell'intelligenza e la stagione pareva altrettanto attiva per i teosofi. L'esercito della salvezza, consentito in Russia per la prima volta nella storia, affiggeva sui muri della città innumerevoli manifesti in cui si annunciavano incontri evangelici solitamente accolti dal pubblico con divertimento e stupore. Così la vita ordinaria della città proseguiva pressoché indisturbata e indifferente, per quanto possibile, alla rivoluzione. I poeti componevano versi evitando di farvi riferimento e perfino i pittori realisti seguitavano a dipingere scene della Russia medioevale, ignorando tutto ciò che avesse la benché minima correlazione con lo spirito insurrezionale. Giovani donne giungevano in città dalla provincia per apprendere la lingua francese e coltivare le proprie opinioni, e nelle hall degli alberghi splendidi ufficiali sfoggiavano bashlik rossi finemente ricamati in oro e spade caucasiche ottimamente rifinite. Le mogli dei funzionari, ciascuna munita nel proprio manicotto di una piccola scatola in oro e argento, talvolta arricchita di brillanti, contenente prezioso zucchero e di una mezza pagnotta, si riunivano ogni pomeriggio per il tè, augurandosi il ritorno dello zar, l'arrivo dei tedeschi o tutto ciò che contribuisse a risolvere la crisi dei domestici. La figlia di un mio amico rincasò infuriata una sera perché la conducente dell'autobus le si era rivolta con lo spregevole appellativo di compagna. Nel contempo, la grande Russia affrontava con un doloroso travaglio il sopraggiungere di un nuovo mondo. I servitori, prima trattati come bestie e sottopagati, anelavano ormai all'indipendenza. Potendo disporre di un salario che raramente superava i 35 rubli mensili e costando un paio di scarpe più di 100, si rifiutavano di consumarne le suole in lunghe ed estenuanti code. Ma, cosa ancor più sconvolgente, in questa nuova Russia tutti, uomini e donne, avevano diritto al voto. La classe operaia disponeva di giornali che riportavano notizie straordinarie e si poteva contare su soviet e sindacati. Perfino i vetturini avevano il proprio ed erano rappresentati nel soviet di Pietrogrado. I camerieri e tutti coloro impiegati negli alberghi organizzati si presero a rifiutare le mance, affiggendo sulle pareti dei ristoranti cartelli recanti le scritte «Non si accettano mance». E ancora, il semplice fatto di trovarsi innanzi a un uomo costretto a vivere servendo gli altri non giustifica l'insulto di offrirgli una mancia. Persisteva la faida tra soldati e ufficiali, incrementata dal fatto che i primi, attraverso i propri comitati, avevano appreso ad autogovernarsi. Nelle fabbriche, i comitati operai, ineguagliabili organizzazioni russe, acquisita forza ed esperienza, prendevano sempre più coscienza della propria missione storica di contrastare l'antico status quo. La Russia intera imparava a leggere, concentrando la propria attenzione su testi di politica, economia, storia, già che tutti avvertivano l'improvvisa esigenza di conoscere. In ogni città, villaggio e lungo il fronte, ogni fazione politica disponeva di uno o più quotidiani. Centinaia di migliaia di volantini, distribuiti da molteplici organizzazioni, finivano nelle mani di soldati, contadini, operai. La bramosia di istruzione, fino ad allora mantenuta sotto controllo, con la rivoluzione, sfociò in una vera e propria mania. Durante i primi 6 mesi, il solo istituto Smolny fece uscire quotidianamente tonnellate di libri che, trasportati da vagoni e carri, ricoprirono l'intero paese. La Russia, come sabbia assetata d'acqua, assorbiva insaziabile il materiale che irrefrenabilmente vi si riversava. E non si trattava di libri, di miti e leggende, né di storia falsificata, di religione diluita o romanzi commerciali atti a corrompere gli animi, bensì di trattati socio-economici, testi di filosofia, opere di Tolstoi, Gogol, Gorky. E poi vi erano i dibattiti, le letture, le orazioni a teatro, nei circoli, nelle scuole, nei club, nelle stanze dei soviet, nei quartier generali dei sindacati, nelle caserme, al cui confronto i torrenti di eloquenza francesi di cui parlava Carlyle rassemblavano un semplice rigagnolo. Innumerevoli i comizi che si tenevano nelle trincee al fronte, nelle piazze dei villaggi, nelle fabbriche. Quale mirabile spettacolo vedere i 40.000 operai emergere dall'industria Putilovsky per ascoltare i socialisti democratici e rivoluzionari, gli anarchici, chiunque avesse qualcosa da dire per tutta la durata dei loro discorsi. Per mesi, a Pietrogrado come in tutta la Russia, ogni angolo di strada mutava in una pubblica tribuna, nei treni, nei tram, in ogni dove scaturiva spontaneo il dibattito. E in tutti questi congressi e conferenze si miscelavano tra loro uomini di ambiente e convenzioni sociali differenti. Segni tangibili di un mutamento apparivano ovunque. Basti pensare alla statua di Caterina la Grande, innanzi al teatro Aleksandrinsky, che recava ora tra le mani una piccola bandiera rossa, ai vessilli del medesimo colore, forse lievemente sbiaditi, che sventolavano da tutti gli edifici pubblici, ai monogrammi e alle aquile imperiali strappate o coperte. Eppure, persistevano alcuni anacronismi. Per esempio, la tavola dei ranghi, imposta alla Russia dall'inflessibile Pietro il Grande, era ancora in vigore. Quasi tutti gli studenti seguitavano a portare l'uniforme prestabilita con tanto di cifre dell'imperatore, spalline e bottoni. Alle 17 in punto, anziani signori si riversavano ancora nelle strade con tanto di uniforme, la borsa sotto braccio e un'aria di messa. Terminato il loro quotidiano impiego presso ministeri e altri istituti governativi che tanto rassemblavano le caserme, rientravano a casa calcolando forse quanto ancora doveva salire il tasso di mortalità dei loro superiori prima che essi potessero raggiungere l'agognato rango di assessore di collegio o consigliere privato con la prospettiva di ottenere una pensione adeguata e magari la croce di Sant'Anna. Per non parlare poi del senatore Sakhalov, che in piena rivoluzione non fu ammesso a una seduta del Senato perché, invece della livrea solitamente indossata dai servitori dello zar, era abbigliato in abiti civili. Questo il contesto di una nazione in disgregazione e in fermento, contro il quale si sarebbe ben presto abbattuta la grande rivolta delle masse. Capitolo secondo. Tempesta in arrivo. Nel mese di settembre, il generale Kornilov, deciso ad autoproclamarsi dittatore militare della Russia, iniziò la sua marcia su Pietrogrado. Palese la presenza alle sue spalle del pugno di ferro della borghesia, che intendeva fermare una volta per tutte la rivoluzione. Vi erano coinvolti perfino alcuni ministri socialisti, tra cui si sospettava lo stesso Kerensky. L'avanzata del generale Kornilov fu arrestata dai comitati dell'esercito, che lo posero sotto sequestro. Numerosi furono i generali licenziati e i ministri sospesi dalle loro funzioni, al punto che il governo, inevitabilmente, cadde. Quando Kerensky tentò di formarne un altro, includendovi il partito borghese dei cadetti, i socialisti rivoluzionari gli imposero di escludergli, ma quegli, opposto un netto rifiuto, minacciò di dimettersi. Solo in seguito alla minaccia di dimissioni di Kerensky e alle grida d'allarme lanciate dai socialisti moderati, i quali sostenevano che la Repubblica stessa fosse in pericolo, l'Assemblea si pronunciò, seppure con una ristretta maggioranza, a favore della coalizione con la borghesia, sancendo la costituzione di una sorta di Parlamento privo di potere legislativo, denominato Consiglio Provvisorio della Repubblica Russa. Di fatto, il nuovo governo era così controllato dalle classi possidenti che detenevano all'interno del suddetto organo un numero spropositato di seggi. La reazione dei bolscevichi fu immediata. Il 2 novembre essi convocarono i soviet a Pietrogrado, esortandoli a prendere il potere, e si ritirarono dal Consiglio della Repubblica dichiarando di non voler partecipare a un governo traditore del popolo. Il ritiro dei bolscevichi non sembrò sedare il Consiglio. Il ceto possidente, acquisito il potere, divenne sempre più arrogante.